Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Enrico Pandiani, autore di Pessime scuse per un massacro, pubblicato da Rizzoli. Ancora una volta, e questa è la quarta volta, il quarto romanzo, compare il gruppo di poliziotti un po' strani chiamati Les Italiennes. Ma adesso, piano piano, conosceremo un po' tutti i protagonisti di questo romanzo. Tutto inizia in questo romanzo con uno strano omicidio, cioè viene ucciso un anziano senatore, la figlia e la guardia del corpo. Chi sono questi personaggi? Ma dunque, questi personaggi sono appunto questo senatore che, pur essendo in pensione, pur essendo ultra ottuagenario, è ancora molto potente a livello governativo, insomma è uno che può spostare le cose, è ancora molto influente. La figlia viaggia con lui, arrivano da Parigi per raggiungere questa bellissima villa di campagna. C'è qualcuno che li sta aspettando nascosto nell'ombra e che fa questa specie di strage con una grossa mitragliatrice e li uccide tutti quanti. La particolarità è anche che questo omicidio avviene con delle armi, diciamo, antiche, insomma. Sì, diciamo che tutto il romanzo ha questi passaggi dal presente al passato che vengono raccontati da vari personaggi che si incontrano durante la narrazione. E sono armi che hanno una storia, insomma, che raccontano una storia. Sono armi che devono essere state nascoste da qualcuno durante la guerra. Quindi una delle piste è questa: è la pista della resistenza. Cioè loro capiscono subito che non è una cosa di terrorismo, ma è una cosa che parte da più lontano, insomma, una vendetta che parte da più lontano. Quindi. Anche perché non sono le uniche vittime, insomma, verranno uccisi nel corso del romanzo anche altri anziani. Sì, c'è questo personaggio che uccide ultra-ottuagenari, persone molto anziane, per cui tutto quanto è in questa ottica di un passato che ritorna, insomma, che potrebbe anche non essere così, però la pista che loro seguono è questa. L'assassino, tra l'altro, lascia una firma particolare sui luoghi del delitto. Quale? Lascia una statuina dell'elefantino Babar, che è un mio personaggio molto amato dell'infanzia e che appunto è una delle tracce fondamentali che loro devono seguire, insomma, questo personaggio che si fa chiamare Babar e che, insomma, si scopre immediatamente, quindi non possiamo anche dirlo, insomma, perché nelle prime pagine viene subito fuori, quindi. Ad indagare su questi omicidi c'è una strana squadra, diciamo, investigativa, composta dai cosiddetti Les Italiennes, che sono stati appunto già protagonisti di altri suoi romanzi. Chi sono? Allora, questi Les Italiennes sono questa squadra di poliziotti della Brigata Criminale di Parigi, che sono tutti di origine italiana. È una squadra che è stata messa insieme anni prima da un vecchio commissario che pensava che gli italiani fossero un po' più fantasiosi. E che quindi tutti i colleghi alla brigata chiamano Les Italiens. Sono il commissario Mordenti, che è il capo di questa squadra, il suo braccio destro, che si chiama Servandoni, che è un po' una figura paterna, quello che è un po' più anziano, quello che sovraintende, che c'è sempre, che sovraintende a tutto, che è quello che dà i consigli giusti. E poi ci sono altri vari personaggi che sono i Coccioni, che è il giullare, diciamo così, della squadra, più altri personaggi che si sono aggiunti man mano nel corso dei romanzi, insomma, come spesso succede. Ma questi sono, diciamo, poliziotti che rispettano le regole o stanno un po' sul filo? Ma diciamo che loro hanno una propria idea della giustizia che è un po' ossidata, un po' personale, però non dovrebbero mai passare le regole dell'etica, insomma. Sono dei personaggi abbastanza particolari perché il commissario, per esempio, è una persona che ha fatto un certo periodo di università, quindi ha una certa cultura. Il suo amico Servandoni, col quale lui ha un fittissimo scambio sempre di dialoghi, di consigli, anche lui è uno che sa certe cose, quindi sono in grado di riconoscere dei libri, di citare dei libri, di conoscere delle opere d'arte, e in più hanno questa loro mania di, nei momenti di tensione, di canticchiare delle canzoncine che sono che hanno qualche riferimento a quello che sta succedendo, e loro le canticchiano per stemperare un po' la tensione, no? Quando c'è qualcosa che li colpisce gli viene su questa canzoncina, perché la musica è abbastanza importante, perché io ne ascolto molta quando scrivo, quindi diciamo che è una mia colonna sonora che mi piace far ritrovare un po' in giro per il romanzo. Ecco, di questo romanzo per esempio, che quale brano potrebbe essere una colonna sonora? Beh, di questo romanzo senza dubbio è questa canzone che si chiama Dance Me to the End of Love, che non è, che originariamente è di Leonard Cohen, ma la versione che a me ha colpito al punto da scriverci un romanzo, perché poi io in realtà ho scritto questo romanzo dopo aver sentito questa canzone, è cantata da questa cantante americana che si chiama Madeline Peyrou, ed è un nome che poi ricorrerà nel romanzo, ed è una canzone che secondo me è molto bella e aveva l'atmosfera di quello che succede nel romanzo. Insomma, tutto quello che succede è un po' richiamato da questa canzone, che all'inizio troviamo subito, perché l'assassino o l'assassina ce l'hanno in testa quando uccidono la prima vittima, insomma. Spesso gli investigatori, i protagonisti dei noir, hanno un carattere ruvido, magari bevono, comunque hanno delle vite sentimentali piuttosto travagliate. Questo commissario Mordenti com'è nella sua vita privata? Ma dunque, il Mordenti è un personaggio sul quale io cerco di lavorare molto e del quale cerco di rivelare man mano gli aspetti psicologici di personalità. È una persona sola perché il padre è morto ottantenne anni prima, la madre se n'è tornata in Italia a vivere, e quindi la sua famiglia è un po' questa squadra degli Italiens. Per questo Servandoni è la figura paterna, perché è il suo riferimento vero, quello al quale lui attinge tutte le volte che ha bisogno di conferme, di... E poi c'è la questione delle donne. Le donne sono una parte rilevante nella sua vita, perché sono un po' la scala con la quale lui si tira fuori da queste brutture che fanno parte del suo lavoro. Insomma, loro vedono delle cose, vedono il peggio della parte scura della vita della gente, no? Insomma, vedono morti, sofferenza, cose brutte. Quindi le donne per lui sono un mezzo per uscire da questa cosa terribile nella quale è costretta a vivere tutti i giorni. E lei come scrittore che rapporto ha con questi suoi personaggi seriali? Perché ormai questo è il quarto romanzo. Questa è una bella domanda, perché in realtà è difficile che passi un momento molto lungo della giornata senza che io stia a pensare a loro, perché comunque uno ha già in testa una storia che verrà in seguito, quindi è già lì che pensa cosa fanno, e poi sei sempre lì che ci ragioni sopra quando guardi in giro, vedi gente, la gente che fa certe cose, quindi dici questo potrebbe essere una cosa che farà nel prossimo romanzo, quindi è un pensiero continuo ed è una presenza abbastanza pressante, nel senso che a volte io mi metto a dormire la sera, mi appoggio la testa sul cuscino, al buio guardo il soffitto e penso, dunque, cosa quindi sono abbastanza invasivi, però è una cosa che non mi dispiace, insomma, io ci sono molto affezionato, quindi mi piace conviverci. Grazie ad Enrico Pandiani, autore di Pessime scuse per un massacro, pubblicato da Rizzoli. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.